Andiamo avanti. Investire informati. Il governo ci tiene ad informarci che ha delle belle intenzioni per l'inizio del 2018, caro Mauro. Tra le sue intenzioni, infatti, c'è questa mini patrimoniale sulle polizze vita. Allora, mini patrimonialina, perché è proprio veramente questione di... Vabbè sì, adesso mini patrimonialina, quando esatto, cominciamo con i diminutivi parlando di tasse non è mai un bel viatico, però... Allora, noi questa mattina abbiamo chiamato qui in studio Federica Pezzati, la ringraziamo per essere con noi. Buongiorno Federica. Buongiorno a tutti. Federica... La donna delle assicurazioni di Plus 24. Esattamente. Adesso. Non so ogni se le piace sabato, essere descritta così. Ogni sabato ci spiega il mondo delle assicurazioni su Plus 24 con il Sole 24 Ore. E allora, che succede? Innanzitutto, bene bene non sappiamo ancora come questa... mini patrimonialina, guarda, voglio darti ragione, ma solo perché ancora siamo a livello di proposta. Questa mini patrimonialina sappiamo qualcosa, non sappiamo bene come andrà a colpire, dovremo ancora leggere materialmente un testo quando verrà presentato alle Camere per la discussione. Ma di cosa si tratta? Abbiamo già l'idea abbastanza chiara, a dire il vero, perché come forse pochi sanno, in realtà si tratta di applicare l'imposta di bollo già introdotta per tutti i nostri investimenti nel 2002, da prima era dello 0,1%, poi via via siamo arrivati allo 0,2 per mille o 2%. Allo 0,2%, che è più facile dire 2 per 1000. Quindi le polizze vita di ramo primo, che sono una sorta di salvadanaio previdenziale considerato al momento dell'introduzione dell'imposta sul bollo dallo stesso Stato quasi intoccabile, insieme ai fondi sanitari, erano stati esentati da questo balzello che invece anno per anno viene prelevato su tutti i nostri investimenti. Ora evidentemente o c'è bisogno evidentemente di nuova cassa, e quindi anche questi salvadanai, diciamo un po' quelli che si tengono con i risparmi proprio intoccabili, evidentemente sono stati giudicati aggredibili. Come dire, aggredibili, e quindi questo sembra già dato per scontato, insomma speriamo che ci sia la possibilità di attenuare l'impatto, un impatto che all'inizio sembra diciamo abbastanza blando, nel senso che il gettito dovrebbe essere secondo le stime di 200 milioni nel 2018 e di 292 milioni nel 2019, però siccome questi soldi vengono, il gettito viene girato allo Stato solo nel momento in cui uno riscatta la polizza o viene liquidata, in realtà nei forzieri dello Stato, seppur non sotto forma di gettito, si formerà un bel gruzzoletto che man mano che gli italiani incassano le loro polizze con risparmi di una vita, vedranno appunto questo flusso andrà a incrementare il gettito fiscale. E se noi consideriamo che le polizze riconducibili a questi contratti attualmente sono pari a circa 450 milioni di miliardi di euro, ci rendiamo conto che il flusso anno per anno che viene appunto depositato potrebbe essere intorno agli 800 milioni, quindi molto lontano diciamo dai 100, che dai esatto, 200 di cui noi si vediamo parla. Solo la punta dell'iceberg in realtà, perché l'anno scorso sono state incassate e liquidate polizze ramo primo per 40 miliardi di euro, e quindi su quel flusso sono state fatte queste stime, però man mano che gli anni passano questo capita bollo che prima non c'era viene consolidato, si cristallizza e poi appunto andrà a regime a incrementare le entrate dello Stato. Teniamo presente che buona parte del risparmio degli italiani è investito in queste formule, perché invece le unit linked, che ora vanno molto di moda ma sono molto più rischiose, pesano molto meno a livello di asset, sono circa 190 miliardi, quindi diciamo che stiamo parlando di cifre consistenti, che se ne voglia dire. Un'ultima cosa, voglio ricordare che su queste polizze c'è già una imposta sulle riserve finanziarie, riserve matematiche, e questa imposta praticamente viene accantonata dalle compagnie, ha già raggiunto gli 8 miliardi, praticamente è un credito d'imposta che negli anni è stato accumulato e che non può essere investito, quindi in realtà mi facevano notare gli esperti che mentre prima potevano essere una formula abbastanza agevolata, adesso paradossalmente le polizze ramo primo diventano una delle formule più penalizzate di risparmio. Nel senso che in questo caso a essere colpiti, sia ben chiaro, non sono le compagnie assicurative, ma sono soprattutto i detentori di queste polizze. Beh, vorrei vedere. E quindi questo punto è particolarmente importante, perché anche stamattina, proprio a 24 mattino, si discuteva della natura: è un investimento o è una finalità? Esatto. Di previdenza, di protezione, di welfare individuale. Bravo. Quasi vogliamo dirlo. Mi dai un assist perfetto per introdurre anche il nostro prossimo ospite, che adesso presentiamo, salutiamo, poi cominciamo a chiacchierare con lui dopo la nostra pausa delle 11:30. Ma il professor Marco Aguiari, già professore a contratto in diritto delle assicurazioni e responsabile civile presso l'Università di Pisa e anche presidente dell'Associazione Culturale Eraclito 2000, è già intervenuto nel nostro programma. Caro Mauro, te lo volevo ricordare questo momento di folklore, ma è interessante, è già intervenuto nel nostro programma quando in passato abbiamo commentato il caso con protagonista il sindaco di Roma Virginia Raggi, che era stata al centro della misteriosa vicenda di polizze vita sottoscritte dal suo ex capo di segreteria Salvatore Romeo, e lei era stata indicata come beneficiaria. Esatto, anche la rete, i social si erano polizze scatenati a propria insaputa. Avevamo spiegato anche come fosse possibile che qualcuno sottoscrivesse delle polizze con beneficiario un'altra persona, siccome sono circostanze possibili, peraltro all'oscuro spiegato della sottoscrizione stessa. Esattamente. Professor Aguiari, intanto buongiorno e grazie. Buongiorno a voi tutti. Con lui faremo un po' di educazione finanziaria, perché proviamo a capire che cosa sono queste polizze vita a capitale garantito, perché magari qualcuno ne ha sottoscritte proprio con l'obiettivo di accantonare una forma di risparmio come un'altra, e non ha ben capito in realtà che tipo di contratto, no, ha firmato. Certo. Per cui faremo anche un po' di chiarezza su questo. Due di denari. In tempi non sospetti, Beatles procreavano delle canzoni che non avrebbero mai immaginato che noi oggi avremmo usato. Ma io sto pensando di usarla come suoneria a questo punto sul mio cellulare. Ma no, dai, mantieni la sigla di Due di Denari, che è tanto carina. Quando suona il telefono e sentiamo la sigla che gira nei nostri studi, capiamo che è Mauro che circola vicino ai nostri tavoli. Senti, io voglio capire di più. Faccio proprio la parte, no, in realtà non faccio fatica, perché interpreto me stesso, del poco informato. E siccome qui siamo a Investire Informati, vorrei capire. E abbiamo anche un professore. Con il professor Aguiari. Esatto. Ma mi spiega un attimo che sono questo tipo di polizze vita del ramo primo a capitale rivalutabili garantito. Esatto, infatti. Mi sembra, non so, come quando io parlo come le risoluzioni dell'Agenzia delle entrate. Professore, mi aiuti? Devi fare lei, come sicuramente tanti ascoltatori che ci stanno appunto, che oggi sono connessi e ci stanno ascoltando. Non è così semplice purtroppo spiegare in due parole, soprattutto appunto privilegiando la chiarezza, perché tale non è nel mondo né assicurativo né bancario, quella appunto dei contratti relativi. Più che mai quando si parla di polizze vita, quando poi si parla di accantonamenti appunto finanziari o non, come appunto le polizze vita che verrebbero oggi colpite dal provvedimento del governo. Stiamo parlando di polizze vita, abbiamo fatto un rinvio al ramo 1, perché purtroppo, e non stiamo ovviamente a elencarli, vi sono ben 6 rami di polizze vita e vanno a distinguere appunto le varie tipologie contrattuali e sostanzialmente a identificare dove i soldi del risparmiatore vanno a confluire. Quelle del ramo 1, per definizione, sono quelle polizze, e anche per loro natura iniziale, sono quelle che hanno più una connotazione vera e propria assicurativa. Perché ricordiamoci che appunto le assicurazioni sono nate con un intento previdenziale, cioè far sì che il cliente, l'assicurato poi nel caso di specie, trasferisca ad altri, l'assicuratore, un determinato rischio che può colpire o il suo patrimonio. Vedi, gli crolla la casa, voglio che questo crollo della casa, che provocherebbe su di me un documento economico, si trasferisca su altri, quindi mi assicuro, assicurazione ai danni. Questa è un'assicurazione vita, dove invece un evento sempre attinente in questo caso alla vita umana, vedi appunto la morte o vedi un grave infortunio che attiene la persona, Trasferisco anche qui il rischio su qualcun altro per cautelarmi l'evento, appunto l'aspetto previdenziale dell'assicurazione, ad altri, all'assicuratore. Le polizze vita, appunto, che anche qui potremmo declinare diverse tipologie al di là dei nomi che ogni compagnia ha dedicato al proprio prodotto, al proprio contratto, sono tanti tipi di polizze. Quelle del ramo primo, appunto connesse e quindi legate a un fatto attinente alla vita umana, caso quindi morte o anche grave infortunio, sono quelle polizze che hanno consentito agli assicurati nel tempo di, in primis sicuramente, mettere da parte delle somme affinché qualora si verificasse l'evento tragico, appunto la loro mancanza, queste somme messe da parte o comunque sulle quali io ho scommesso venissero a sostegno di coloro che rimanevano, perché il, appunto, la mancanza, mettiamo, di una persona che lavorava e che lasciava moglie e bambini senza reddito, potesse appunto cautelare la loro vita, quantomeno nel proseguo degli anni. Ovvio che questo si sente molto l'aspetto previdenziale, l'aspetto sociale anche della polizza stessa. Che però nel tempo piano piano è andata mutando con i cosiddetti prodotti misti, prima delle già citate index e altre. Unit, le polizze con contenuto finanziario, tanto esatto, per tradurle in italiano. Esatto, questi nomi strani, Unix Linked, Index Linked, no. Linked legato. Guardi, richiamiamo alla memoria quelle polizze che avevano dei rendimenti agganciati ai titoli Lehman Brothers, così le persone le ricordano bene, esatto, tanto per legati, fare un esempio linked, significativo. Linked, questo ci aiuta, o a degli indici di borsa, o comunque a dei fondi, comunque sicuramente una connotazione prettamente finanziaria. Lo Stato in questo caso sta colpendo, e ancora però non è del tutto chiaro, quindi mi permetto una precisazione su come e quali polizze del ramo 1 verranno colpite, se tutte, e ve ne sono, come ho detto, diverse tipologie, o solamente quelle che hanno comunque una connotazione finanziaria. Il richiamo iniziale alla polizza Raggi poteva essere un facile aggancio all'aspetto finanziario. Dei soldi sono stati accantonati perché trasferisco ad altri la gestione in qualche modo di questi soldi, sperando che questa gestione, pur, attenzione, ramo 1, questa è l'essenziale, pur cautelando il mio capitale, perché il capitale sarà garantito perché è gestito, io ti do 100.000 euro per dire premio unico, purché tu me lo metti in una gestione separata, ossia separata dal patrimonio della compagnia. Tra l'altro qui dovremmo aprire, professor Aguiari, un altro grande capitolo di difficoltà delle compagnie di assicurazione a garantire adesso questi stock che hanno, perché per le gestioni separate è anche un momento particolarmente complesso, delicato. Tanto che le compagnie stanno virando anche modello di business. Mi scusi se la interrompo, ma qua il tempo ci sta sfuggendo di mano e abbiamo bisogno di sintesi. Professor Aguiari, le chiedo che cosa significa andare a colpire la cosiddetta comunicazione annuale. Vuol dire che è come se lo Stato ci tassasse ogni volta che la compagnia di assicurazione interagisce con noi comunicandoci come sta andando il rendimento di questa polizza. Cosa vuol dire esattamente questa espressione? Allora, traducendo per sintesi, io ieri mi sono fatto mandare da un collega un vero e proprio documento che costituisce la comunicazione. No, la comunicazione dell'assicurato si vede ogni anno arrivare se ha contratto una polizza vita. È un documento di una pagina, direi chiaro unicamente per coloro che si sono addetti al settore. Vengono comunicati alcuni dati, immagino che tra questi dati un domani sarà indicata anche imposta di bollo 0,2%, che va a colmare le altre informazioni che vengono qui appunto esplicate. Sostanzialmente nella comunicazione all'assicurato viene detto: i tuoi soldi che hai versato sono questi, il risultato finanziario della gestione separata è questo, e viene indicata una percentuale. Se riscatti oggi, l'importo che ti ridiamo è questo. L'importo che ti ridiamo è questo, questo 0,2%, esatto, che ogni anno ti verrà trattenuto, ma al momento del riscatto finale o comunque eventualmente un riscatto preventivo, se io non voglio arrivare a scadenza, ti verrà detratto anno a anno, moltiplicando quello 0,2 per 1000 per gli anni parliamo dal 2018 in poi, ovviamente non delle polizze pregresse, lo Stato tratterrà, ti tratterrà su quello che sarà il tuo capitale a scadenza. Allora, questo... ci fermi, aspetti professore, perché dobbiamo, abbiamo due doveri prima di fermarci per le informazioni sulla viabilità. Il primo è il domandone, quindi chiedo a Paolo Corleoni, che ringrazio. Un adeguato accompagnamento. L'accompagnamento. L'altro giorno ci ha scritto un ascoltatore che si chiama nome e good morning, perché aveva risposto al nostro quizzettone e si è creato un indirizzo di posta che si chiama appositamente. Esatto, good morning. Allora, la domanda è molto semplice: se avete ascoltato la trasmissione fino a qui, cosa intendiamo allora con queste assicurazioni di ramo primo? Vi vogliamo aiutare? Siamo di una bontà addirittura esagerata. L'aiutino famoso di ogni quizzettone. Scegliete tra tre risposte possibili. Assicurazioni di ramo primo intendiamo fondi pensione o polizze vita o polizze con contenuto finanziario? Due di denari. Rifo, come si dice, rifacciamola. Rifacciamo la domanda, dai. Allora va, dai, ve la ripetiamo. Cosa intendiamo con assicurazioni di ramo primo? Quelle, per capirci, che sono nel mirino della legge di bilancio con la mini patrimonialina dello 0,2%. Tutto per, mini, poi dopo quando del arriva... Del 2 per 1000, 0,2%. Allora, intendiamo fondi pensione, oppure polizze vita, oppure polizze con contenuto finanziario. Telefonateci 800 24 00 24. Intanto però, a proposito di telefonate, c'è Tonino da Milano che ha una domanda di ordine abbastanza generale, che può legarsi, diciamo, a una certa descrizione. Ci dica, Tonino. Buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione. Grazie. Io volevo fare una domanda al professore. Praticamente io avevo una polizza vita a credit rassa 1,50 fisso per 5 anni. Scaduta quella lì, l'interlocutore di finanziario mi propose di fare la 360, sempre uguale, della polizza vita credit rust. Al che cosa è successo? Che io mi sono andato a leggere il contratto, sì, e lì mi diceva che mi veniva scalata la penale, diciamo così, anno per anno, se io avrei, diciamo così, liquidato la cifra investita. Invece non è così. Beh, sono i caricamenti, Federica. Allora, magari qui dobbiamo distinguere, perché purtroppo siamo vessati dalle tasse, ma anche dai costi. E per cui anche chi avesse in mente di riscattare una polizza per non pagare il mollo potrebbe incappare in penalità di riscatto che, come evidenziato anche, certo, da una lettera a cui risponderemo questa settimana su Plus, c'è una polizza di una compagnia che adesso non opera più in Italia, però ha lasciato questo ricordo, che oltre il decimo anno, cioè se tu esci prima del decimo anno, ti ridanno il 60% di quanto hai maturato. Cioè, voglio dire, parliamo di costi altissimi. Talvolta, infatti, il lettore si chiedeva: ma è possibile che ci siano queste cose legalizzate? Purtroppo sì, e sta a noi leggere. Lei ha fatto benissimo a leggere il prospetto, però interpretiamolo bene. Se lei rimane fino a scadenza, non dovrebbe incappare in questa tagliola ulteriore. Allora, c'era... Sì, no, ma scusami Mauro. Prego, volevi... Deborah. No, c'era l'altro ascoltatore che poi in realtà è scomparso. Adesso stiamo provando a recuperarlo, ma che ci dava modo di fare un po' un punto della situazione su tutta quella che è l'ampia gamma di balzelli fiscali che grava sul settore assicurativo, no? A cominciare anche dal cambiamento importante che ha vissuto lo strumento fondi pensione negli ultimi anni, Federica. Certo, certo. E questo è un tema assolutamente che irrita un po', indispettisce molti ascoltatori, sì, e indispettisce anche un po' l'industria. Abbiamo recuperato? Era Vincenzo? No, Marco, non capisco cosa vuoi fare. Umberto da Palermo, che qua non vedo scritte... Senti Deborah, comunque volevo fare solo una precisazione. La legge che sta per essere approvata prevederebbe le ramo primo escluse le coperture rischio morte e invalidità, quindi ci tenevo a precisare questo, perché almeno le liquidazioni dovute a infortunio o a le cosiddette temporanee caso morte, quindi quando cosa viene... hai fatto bene a citarle, non vorrei che me li sementa qualcuno adesso, dice, ma sì, perché non ci abbiamo pensato? No, perché voglio dire, queste sono proprio tutele basilari, cioè per cui si versa un prezzo premio a fondo perduto, cioè verso 1000 euro l'anno, non me le ridanno più, però se succede qualcosa mi ridanno tutto, cioè mi ridanno il capitale assicurato senza metterci il bollo, per favore, perché sennò magari abbiamo recuperato l'ascoltatore Umberto da Palermo, giusto? Ci dica Umberto. Buongiorno. Ma io volevo dare un piccolo contributo all'argomento che state affrontando. Io sono un consulente assicurativo, però volevo fare un discorso un po' più ampio di patto sociale. Cosa intendo col patto sociale? È vero che le polizze vita, come avete descritto finora, sono anche degli strumenti di welfare, assolutamente sì. Sono strumenti di welfare anche tutta la situazione che riguarda la previdenza integrativa. E lo Stato, stranamente, mentre da una parte continua ad arretrare sulle posizioni di welfare da garantire alla cittadinanza, poi continua a vessare con tasse e balzelli nuovi tutto quello che invece è il welfare privato che i cittadini mettono in atto. Vorrei ricordarvi che non più di qualche anno fa sono state aumentate anche la tassazione sulle plusvalenze dei fondi pensione. Ne abbiamo parlato tante volte, sì. Umberto, commentandolo in senso positivo naturalmente questa posizione recente, ovviamente. Certo, infatti proprio ha ragione, nel senso che poi parliamo anche di coperture delle calamità naturali e scopriamo che le polizze sono tassate addirittura al 22% su questa fattispecie. Per non parlare dell'RC auto, che si arriva addirittura in alcune province al 26,5% di tasse, quindi francamente è chiaro che soprattutto sul fronte previdenziale ci troviamo in un contesto europeo dove invece vige ad esempio lo schema esenzione e tassazione finale, invece noi siamo esenzione nella parte iniziale, poi abbiamo tassazione tutti gli anni sul maturato del 20%, prima eravamo all'11%, insomma mi sembra che in più la tassazione finale della prestazione, in uno stato in cui appunto abbiamo bisogno del secondo pilastro, perché abbiamo visto che il primo è in forte arretramento, per cui sicuramente è molto facile, molto comodo tassare queste forme perché danno un gettito abbastanza cospicuo e immediato, però forse bisognerebbe intervenire, ma non sta a me dirlo, ci sono autorevoli anche autorevoli voci di questa radio che lo ripetono, bisogna intervenire con riforme strutturali e non andare a tassare i risparmi. Limitando adesso il commento al tema di stamattina, ci rimangono pochi secondi, ti leggo Mauro un messaggio su WhatsApp perché in realtà è una curiosità che avevi anche tu, che stavi rivolgendo a microfoni spenti a Federica. Se io riscatto la polizza domani entro fine 2017 pago ugualmente? In realtà qua la tentazione potrebbe venire a molti, no? Per sfuggire a questo. Me ne vado prima e così prelievo. Schivo l'imposta di bollo. Sentiamo il professor Aguiari che ne pensa. Velocemente, professore, grazie. Velocemente direi giuridicamente è ineccepibile, cioè intanto se la riscatto domani non è ancora entrato in vigore il provvedimento, quindi sicuramente mi auguro insomma che non ci sia un'efficacia retroattiva dello stesso, quindi direi che al di là delle penali che potrei comunque scontare sulla polizza che vado a riscattare, nulla questio. Ecco, però vorrei precisare una cosa, la domanda io la facevo più in chiave, la facevo qui a Federica mentre non eravamo in onda, proprio per dire questo potrebbe rischiare così di creare una ondata di riscatti non voluta o anticipata, qualche volta appunto con i cavi di tassazione si corrono questi rischi. Abbiamo la risposta al domandone. Davvero? Da Vincenzo, sentiamo Vincenzo la risposta. Sì, buongiorno. La risposta è la polizza del ramo 1 e la polizza gestione separata, quindi la numero 2. La polizza, mi serve una parola di 4 lettere. La polizza vita, perfetto. Certo. C'era anche Viviana che si era messa in collegamento con noi, aveva credo forse una risposta non corretta, ma siccome si è candidata a rispondere come tanti abbiamo pescato magari il CD dei Chapter 11 e glielo mandiamo lo stesso. Ma sicuramente. Grazie, molto gentilissimi. Grazie a Federica Pezzatti, a Marco Aguiari per essere stati con noi, insomma una situazione che sta evolvendo e vedremo quando avremo delle carte più precise in tavola se dovremo ritornare su questo tema, caro Mauro. Ma sicuramente, perché come diremo domani. C'è sempre un'imposta per te. Va bene. Sono quasi le 11.55.30, per cui è tempo di salutare tutti come sempre. Grazie a Marco Lombardo, Giulia Lauricella, oggi Paolo Corleone in assistenza tecnica. Noi torniamo domani. A domani.